get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte, quella che state per ascoltare è la nostra 186esima trasmissione. È una trasmissione particolarissima e siamo molto contente che questa sera si possa finalmente effettuare, perché abbiamo una nostra graditissima ospite che aspettavamo da tanto tempo, e di questo però vi parlerà meglio Lucilla. Io vi ricordo semplicemente il numero del cellulare sul quale potete mandare gli sms per farci capire che siete con noi, che è 338 41 46 682, e ricordo che vi potete collegare per ascoltarci in diretta via internet al sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info. cliccare sull'icona in diretta e siete direttamente con noi, oppure anche attraverso il nostro sito del CLR, che è www.clrbp.it. Il telefono qui della radio è 06 49 17 50 per mandarci i trillini o per telefonarci in diretta per farci sapere che cosa ne pensate. Vi ricordo che questo è utilizzabile fino alle ore 10. Ascoltiamo uno piccolissimo stacchetto musicale e poi cedo il microfono a Lucilla. Allora, buonasera a tutte. In studio questa sera, in studio in radio, siamo Lucilla, come vi ha anticipato, Caterina, che farà la fonica come sempre, grazie, e Anna, che sarà con noi questa sera. E come vi ha già anticipato Caterina, faremo una trasmissione con una ospite per noi di eccezione, siamo molto felici di averla, è Fatou del Mali. E poi ci parlerà lei del progetto che sta portando avanti con l'UDI, Unione Donne in Italia, ed è un progetto di apertura di uno sportello in Mali. E come vi dicevo, ce ne parlerà meglio Fatou. Voglio soltanto ricordarvi che, a proposito delle mutilazioni genitali femminili, già nel 2004 noi abbiamo fatto una iniziativa per noi fondamentale e fondante, la politica del nostro gruppo, che è stata Oppressioni a Confronto, e che ci ha permesso di incontrare le compagne di Nodi, Nostri Diritti, cioè compagne africane che lavorano intorno a questo progetto. E per questo Anna adesso vi leggerà un pezzo relativo al nostro lavoro di quel tempo, del 2004, ma assolutamente attuale. Grazie del microfono. Niente, praticamente questo è il resoconto di questa iniziativa che abbiamo fatto, che si è tenuta il 13 maggio del 2004 appunto. È sempre attuale, perché le oppressioni non hanno confini, a quanto pare, per le donne. L'iniziativa Oppressioni a Confronto è stata innanzitutto un incontro di vissuti, di esperienze, di corpi di donne, quelli nomadi, delle compagne e amiche immigrate, rappresentanti dell'associazione Nodi, della rete Stop Mutilazioni Genitali Femminili. Donne contro ogni tipo di mutilazione genitale femminile, quelle delle tante che hanno ascoltato in silenzio e con profonda attenzione le parole e le esperienze narrate, accendendo poi un intenso dibattito, e infine quelli cancellati dalla cultura eterosessuale e dell'egemonia del patriarcato maschile occidentale, che appartengono a noi del coordinamento lesbiche romane. Ma il senso profondo e il risultato più importante dell'evento risiede per noi soprattutto nella pratica politica di una relazione che, come hanno detto in apertura le sorelle di Nodi, ha creato subito una comprensione e un'accettazione reciproca. una disposizione all'ascolto, un rispetto e un'accoglienza fatto di linguaggio e di sapere dei corpi, coincide con la pratica femminista del partire da sé. Ma perché abbiamo pensato a questo incontro? Di mutilazioni genitali femminili, come spesso accade per molte altre questioni che attraversano i corpi e il sapere esperienziale delle donne, si parla spesso soltanto sull'onda di un risvegliato interesse giornalistico per la notizia che fa sensazione e accende l'interesse pubblico per un piccolo, minuscolo e subito insignificante momento. A parlare sono per lo più i sapienti occidentali, opinionisti, medici, psicologi, antropologi, eccetera, che mai o quasi mai entrano in dialogo e in confronto con chi le mutilazioni le vive sulla propria fisicità e dentro la propria appartenenza. A noi non interessava inserirci in questo meccanismo, volevamo al contrario riflettere, a partire dalla pratica delle mutilazioni genitali femminili, sui sistemi messi in atto dal patriarcato nei diversi contesti culturali, in Oriente come in Occidente, per esercitare il controllo sulle donne. Volevamo parlare e far parlare quelle che ne sanno più di noi, perché appartenenti alle culture e alle società che le pongono in atto. Così abbiamo deciso di interloquire con le nostre sorelle migranti, perché come noi sagge depositarie di un sapere scritto sul corpo, e lo abbiamo fatto privilegiando il contesto separatista affinché questo confronto potesse svolgersi in maniera completamente autonoma, separando appunto il nostro sapere dal dominio della cultura dominante. L'incontro ha previsto dapprima la visione del film prodotto dall'Aidos e intitolato La grande ferita di Tilde Capomazza, il quale ci ha introdotto al tema descrivendo la pratica, la storia del suo ingresso all'interno degli argomenti di dibattito e di discussione dei contesti femministi e di donne, i progetti attuati, l'importanza che l'argomento ha rivestito nelle conferenze e nei seminari specifici. Successivamente abbiamo riproposto i fotogrammi iniziali del video, nei quali le mutilazioni venivano definite con un atteggiamento disprezzante e insensibile superiorità, pratica barbara e feroce, e vi abbiamo contrapposto una sequenza di diapositive che riproducevano cartelloni nei quali il corpo, naturalmente nudo o seminudo, di una donna veniva esibito a scopo pubblicitario, accompagnando la visione con la ripetizione cadenzata dell'espressione pratica occidentale voluta. Infine, abbiamo lasciato la parola alle donne di Nodi e Stop MGF, che con intensità, precisione e una straordinaria lucidità ci hanno portato la loro testimonianza e la loro esperienza, e ci hanno dato il senso politico e sociale della loro posizione sulla legge attualmente in discussione al Senato e di cui danno conto nell'intervento che hanno redatto e che qui è stato ospitato. Abbiamo scommesso alto. In un momento storico duro, contraddistinto da guerre, da crisi economiche, da vecchi e nuovi razzismi, da anni ci interroghiamo sul perché le donne lesbiche, che a dispetto della cultura dominante scelgono di amare un'altra donna e che scelgono il piacere come motivo fondante le proprie vite, non riescono a costituirsi in comunità e si rappresentino scarsamente a livello sociale. E difficilmente trasferiscono un sapere così potente iscritto nel loro corpo in un sapere collettivo che produca un cambiamento sulla società. Ci riferiamo all'obbligo istituzionale all'eterosessualità e ai meccanismi di consenso subdolamente giocati dal patriarcato che impediscono alle donne in genere e alle lesbiche stesse di individuare l'amore fra donne come una scelta possibile. Spesso ci chiediamo come mai le donne e le lesbiche non si oppongano attivamente alle misure di esclusione messe in atto dal potere patriarcale e che si sostanzia di elementi come il controllo maschile della legge, vedi per esempio quanto detto della famiglia come cellula naturale nell'articolo 29 della Costituzione italiana. L'interpretazione dei testi sacri messi in atto dalla teologia, i metodi di una scienza che studia e stabilisce strane naturalità, i processi di un'economia che fanno sì che le donne possiedono l'1% delle proprietà mondiali, svolgono i 2/3 del lavoro mondiale e guadagnano il 5% del monte salariale mondiale, date della conferenza di Pechino del 1995. Una divisione sessuale dell'occupazione per cui il terziario e l'attività di cura divengono appannaggio quasi esclusivo della forza lavoro femminile, il relegamento delle donne ai livelli più bassi della retribuzione, la loro esclusione dalla mobilità verticale di carriera e così via. né ci sembra che ci si opponga attivamente a misure denigratorie e sanzionatorie patriarcali, quali la pornografia, la prostituzione, la mistica del matrimonio. L'imposizione della taglia 42, di cui il valore coercitivo e oppressivo rivestito in Occidente, è stato giustamente sottolineato da Fatema Bernissi, la chirurga estetica che rende il corpo femminile transgenico. La pubblicità, lo scambio delle donne, lo stupro, dove la vittima viene rappresentata e condizionata a sentirsi come la responsabile della propria vittimizzazione. L'incesto e la pedofilia, per ricordare soltanto alcune. Va poi detto che i meccanismi di consenso di cui si serve il patriarcato si attuano attraverso dei codici di linguaggio scritto e non scritto. Codici di linguaggio scritto e non scritto, orale e di immagini dai quali le donne e le lesbiche sono escluse. L'ideologia dell'amore eterosessuale si trasmette attraverso le fiabe, la letteratura, i libri di testo, la televisione, il cinema, la pubblicità, le canzoni, la coreografia dei riti matrimoniali, i giocattoli, la riscrittura delle storie, la creazione di alcuni miti ad hoc e la distruzione di altri con un indottrinamento precoce delle bambine. Naturalmente tutti sappiamo che non ci sono leggi in Italia che puniscono l'omosessualità e il lesbismo, ma sappiamo anche che esiste un codice non scritto che vieta entrambe le pratiche e che sanziona pesantemente le lesbiche. Quante e quante donne decidono di non viverselo, condannandosi all'infelicità? Il rischio e il pericolo che dobbiamo evitare è di divenire conniventi con il sistema, di permettere anche con il nostro comportamento che il lesbismo continui a essere considerato una pratica aberrante, che i corpi, i desideri e i vissuti lesbici vengano completamente cancellati e che l'eterosessualità obbligatoria venga nominata come fatto naturale. L'antidoto può essere trovato, almeno in parte, nel recuperare dentro di noi l'esperienza del lesbismo come devianza positiva, capace di destabilizzare l'idea interiorizzata di maschile e femminile e rompere lo stereotipo di genere sul quale si fonda il patriarcato, esistenza di due generi di cui uno domina l'altro. E a partire da questi presupposti che abbiamo individuato tanti parallelismi tra la storia delle donne migranti e la nostra, a iniziare dalla medicalizzazione della questione. Le donne che hanno subito mutilazioni genitali femminili avrebbero problemi psicofisici, così come le lesbiche, che un tempo apparivano soggetti devianti, oggi invece sarebbero bersaglio dell'omofobia. Una nuova malattia, come si vede ancora una volta, non si fa altro che spostare l'ottica verso spiegazioni e risposte più rassicuranti. Più in generale, entrambi i processi di controllo della sessualità femminile si basano sull'enfatizzazione del ruolo attivo delle donne nella riproduzione e nella trasmissione della cultura patriarcale. Sono le madri che educano le figlie e i figli, tramandando la tradizione. E fanno perno su un sentimento di vergogna che nasce dall'interno delle famiglie quando si esce dagli schemi che la società indica per il tuo ruolo di donna. Anche noi ci scontriamo come con una comune incapacità del personale sanitario, visibilmente in difficoltà quando si tratta di accogliere sia le donne migranti sia le donne lesbiche, perché nel primo caso non conoscono e non cercano di apprendere, mentre nel secondo esprimono pregiudizi e condividono luoghi comuni, vieti e abusati. Cosa dire poi del comportamento di una classe medica che condanna le mutilazioni genitali femminili e nel contempo lucra sulla chirurgia estetica che mutila altrettanto profondamente e terribilmente i corpi delle donne occidentali? Insomma, ci sembra che le mutilazioni genitali femminili e l'eterosessualità obbligatoria siano entrambe, per usare una felice espressione di Marcel Mauss, fatto sociale totale. E partendo di qui che, insieme alle sorelle migranti, abbiamo deciso di incontrare le altre donne. Grazie. Rendi chiaro quel che hai, la paura li terrà, ti faranno dire no, tu non dirlo, tu lo sai, adidina didera, adidina dida, e la musica dolce per sempre vivrà, adidina didera, e il sole verrà, la tua veste era bianca e più bianca sarà. Allora, torno io al microfono. Il pezzo che avete ascoltato era Didin di Rossana Casale. E adesso procederei rapidamente a leggere una autoconvocazione nazionale dell'UDI nazionale. Vi ricordo che l'UDI è l'Unione Donne in Italia, che rende conto alle compagne dell'UDI del progetto Scommettiamo con Fatou. E poi finalmente daremo la parola a Fatou. Allora, dice, lo scrive Pina Nuzzo, che è dell'UDI nazionale e che voi avete già sentito qui in radio con noi. Carissime, voglio farvi sapere come è proceduto in questo periodo quello che abbiamo chiamato Scommettiamo con Fatou, un progetto suo e nostro che è andato via via costruendosi sia dal punto di vista pratico che delle relazioni fra noi. Il desiderio di Fatou di ritornare nel Mali per mettere in piedi un centro di consulenza legale per donne, coerentemente con la sua preparazione giuridica e soprattutto con la sua passione politica, ha mosso lei e noi a immaginare le strade che è necessario percorrere per realizzarlo, poiché non si tratta né di assistere né di tutelare, ma di dare credito ad una donna adulta e determinata iscritta alla nostra associazione. Abbiamo studiato con lei le forme di sostegno più adeguate alla situazione e più aderenti alla pratica politica dell'UDI, non a caso denominata ormai Unione Donne in Italia. Come ricorderete, abbiamo esposto questo progetto un anno fa nell'autoconvocazione di giugno e più solennemente in quella di ottobre in occasione del 60° dell'UDI. Fin da allora alcune donne iscritte e non iscritte singolarmente o in gruppo si erano appassionate a questa impresa, dando il loro contributo economico e impegnandosi a rinnovarlo per un certo tempo. Fin dall'inizio è stato esplicito con Fatou che si trattava di un sostegno di 2 anni all'avvio del centro. Quello che vorrei raccontare è come l'impegno dell'associazione si è tradotto nelle relazioni ravvicinate tra Fatou e quelle di noi che hanno la possibilità di vederla più di frequente o, come me, la responsabilità di stabilire questa mediazione. Accanto all'apprezzamento per la lucidità politica e per la determinazione di Fatou, non vi nascondo che c'è stata in noi la paura per le difficoltà che avrebbe incontrato. Siamo arrivati al punto di sondarla a più riprese sull'opportunità di tornare in un paese, il Mali, che è tra i più poveri dell'Africa e in cui la vita delle donne è soggetta a regole particolarmente restrittive. In questa paura giocava certamente l'ignoranza specifica sulla realtà di quei paesi, tutto il nostro pregiudizio di europei, non ce lo possiamo nascondere, ma anche lo scrupolo di mandare allo sbaraglio una donna pur di tener fede ad un progetto. Proprio parlando con lei, facendoci raccontare della sua terra, della sua famiglia, delle usanze, dei cibi, delle feste, delle regole che determinano i rapporti fra le diverse etnie e soprattutto tra i generi, mettendo a confronto continuamente i suoi racconti con forme simili che sussistono nel nostro mondo o che sono appena alle nostre spalle. Sono riuscita a capire meglio da che cosa nasca questo suo bisogno di ritornare comunque e di ritornare con un suo progetto di cambiamento. Fatou, a sua volta, frequentando le nostre riunioni e le nostre case, condividendo viaggi e incontri, ha avuto la rappresentazione concreta di un'associazione di donne ed esempi di pratica politica da adattare con grande invenzione alla situazione del suo paese. Il Mali, ho imparato, è meno arcaico di quanto noi immaginiamo e più articolato nelle sue contraddizioni geografiche, sociali ed economiche. Proprio per questo, quando ho quasi casualmente appreso che di lì a poco a Bamako, capitale del Mali, in cui risiede la famiglia di Fatou, si sarebbe tenuta la seconda conferenza delle donne africane contro le mutilazioni genitali femminili, Stop FGM, ho pensato che sarebbe stato bello e utile che l'UDI vi partecipasse attraverso una iscritta direttamente interessata, appunto, Fatou. Alla prima conferenza a Maputo, l'UDI aveva partecipato indirettamente attraverso la raccolta di 15.000 firme a sostegno della campagna delle donne africane. A quelle di noi che stavano già sostenendo il progetto è sembrato un buon investimento politico, darle questa opportunità. Nel resoconto che ci ha fatto Fatou al suo ritorno e che vi è stato inviato ci sono tutti gli elementi per capire che avevamo visto giusto. Non solo perché Fatou ha avuto modo di stabilire contatti, di farsi conoscere, di mettere a punto gli strumenti e le modalità per realizzare la sua idea, ma anche perché per lei personalmente ha significato, dopo diversi anni, ritornare alla sua famiglia, alla sua città, in un ruolo che le ha dato prestigio per la fiducia che molte donne italiane le stanno dando. E adesso, dopo un piccolo stacco musicale, finalmente sentiremo la storia di Fatou. But I do. Allora, eccoci nuovamente qui e quindi chiedo a Fatou com'è nata la sua storia, cioè com'è la sua storia, e come sei arrivata in Italia, a partire da quale desiderio sei venuta e quindi hai iniziato la tua grande migrazione e anche la tua formazione qual è? Grazie. Buonasera a tutte, sono Fatou. Mi sono ritrovata in Europa più vicino al microfono, se no non si sente. Sono microfoni, questa è una radio povera. Mi sono ritrovata in Europa nel 2001, prima in Francia e dopo in Italia. Mi sono laureata nel 99. In diritto privato in Mali e poi non riuscivo a trovare in Mali un lavoro che mi piaceva. Ho deciso di andare a Parigi per fare per seguire un corso post laurea in diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Dopo che ho avuto l'iscrizione, ho avuto un problema perché avevo un visto per turista, non era un visto per studio. Dovevo tornare e poi ho avuto tantissimi problemi burocratici e comunque non sono riuscita a farla. Cioè non sei riuscita ad avere il visto per lo studio? No. E quindi non hai potuto frequentare il corso. L'approfondimento. E allora che cosa è successo? Come te la sei cavata? Hai deciso di fare? Allora è successo che avevo amici in Italia e ho chiamato loro, ho chiesto loro ospitalità e poi mi sono ritrovata in Italia. E che cosa hai fatto in Italia quindi per mantenerti? In Italia per mantenermi all'inizio comunque, che non è facile per nessuno, sono stata obbligata a fare la colf. Perché non parlando l'italiano, non sapendo come andavano le cose, come tantissime altre donne straniere, era il mestiere più facile. Quindi una colf laureata, esatto. In diritto, che non poteva neanche difendere i propri diritti a questo punto. No. Perfetto. E mai avuto il visto in Italia? Sì. Sì. Sono a posto in Italia. Senti, e poi che cosa è successo? Hai continuato a lavorare, però certo se questo lavoro non è un lavoro, se non hai voluto fare nel tuo paese, non vedo perché lo devi fare in un altro paese, no? Quindi che cosa è successo e che cosa ti ha spinto a cambiare, a cercare altro? È successo che non vedevo... Ho capito che non vedevo un futuro per me. Comunque da sempre ho avuto la voglia di aiutare le donne, le bambine in difficoltà. Da piccola ho sempre avuto la voglia di essere vicine a altre donne. E da lì ho detto, qui non vedo nessuna possibilità per me. A questo punto è meglio che rientro in Mali. E nel frattempo ho avuto la fortuna di incontrare la presidente dell'UDI, Pina Nuzzo, a Napoli, in una iniziativa politica per la raccolta di firme contro le mutilazioni genitali femminili, Stop FGM. E da lì ci siamo cambiati gli indirizzi. E posso dire, dopo questo incontro, la mia vita è stata cambiata. Quindi hai incominciato a dare un senso alla tua presenza qua, con potrei dire con l'esigenza e quindi il desiderio politico di incontrare la cultura, di far incontrare la tua cultura con altre culture, con quella di questo paese, no? Sì, sì. Ho avuto l'occasione di frequentare tantissime donne. E poi da lì sono riuscita anche a a fare una idea tra le due culture, tra i modi di vedere, i due modi di vedere le cose. Allora, io infatti volevo chiederti, prima ancora di farci raccontare del tuo progetto, quello che vorrei chiederti adesso è che idea ti sei fatta della nostra cultura, della cultura di questo paese dove tu sei da qualche anno, no? A questo punto da almeno 4 anni, no? Sì. Ecco. Rispetto alla possibilità di scambio alla pari, come normalmente dovrebbe essere, cioè nel senso che se io conosco una persona che proviene da un altro paese e che esprime un'altra cultura, io posso parlargli della mia cultura e l'altra persona può parlarmi della sua cultura. Per te è stato facile questo percorso? È stato così? Oppure hai incontrato altro atteggiamento, altra modalità? Sì, posso dire che ho avuto e conosciuto altre modalità per vari motivi, per comunque su una cosa, la maniera come pensiamo noi e come pensate voi donne europee, non mi sono trovata sempre d'accordo come pensate voi a una cosa e come pensiamo noi. E lì sono rimasta un po' comunque, io prima di dare un giudizio a un'altra cultura, provo a capire il perché, a conoscerla prima di dare un giudizio, perché è facile per criticare l'altro senza sapere davvero le motivazioni. Infatti l'impressione che abbiamo noi da donne lesbiche, che quindi siamo un po' fuori, diciamo così, dalla cultura dominante, perché esprimiamo un altro tipo di portato culturale, è quello che appunto le donne occidentali ritengono di stare all'interno di una cultura democratica, evoluta. E questo, l'impressione che abbiamo noi, e che abbiamo anche espresso nella cosa che abbiamo letto all'inizio, è che le donne europee si ritengano libere e inserite in un sistema democratico dove come donne, sì, ci sono delle contraddizioni, ma tutto sommato vivono bene, non riconoscono il loro sfruttamento. E questo serve loro a dimenticare, perché, come dice Fatema Mernissi, con buona probabilità le donne europee sono donne ridotte al silenzio, ed è questa la cosa più grave. E quindi con buona probabilità noi donne europee siamo ridotte dal patriarcato al silenzio e non ci rendiamo neanche conto che invece ci sono altre donne che riescono a parlare a partire dalla coscienza che hanno della loro situazione, del loro modo di vivere. Quindi insomma, però poi oltre a queste donne hai trovato anche altre donne. E nell'Udi com'è andata? Nell'Udi è andata benissimo, che comunque da sempre ho avuto questa voglia di aprire un centro e tutto. Parlando con loro, con l'aiuto anche di altre donne, ora mi stanno aiutando a avere i fondi necessari per aprire questo centro in Mali. Ci vuoi descrivere? Infatti, sì. Ecco, descrivici proprio il progetto, come ti è venuto in mente, cioè quando è che hai incominciato a desiderare, appunto, tu hai detto a un certo punto ti sei resa conto che volevi tornare in Mali per fare delle cose lì, nella tua terra di origine e nella tua cultura, giustamente, per operare le trasformazioni che ti interessavano. Perfetto, quando è iniziata questa cosa e come hai incominciato a vedere, ad avere la visione, come diciamo noi, a noi ci piace dire avere la visione del cambiamento e la visione del futuro. E la tua visione del futuro, quando è incominciata e per te com'è stato, insomma? Com'è il tuo progetto? Sì, il progetto, prima di tutto, già che il progetto ha un nome che si chiama Scommettiamo con Fatou, e quasi un anno fa ci siamo messi d'accordo per le cose che mi possono servire, abbiamo iniziato a parlare dell'idea del progetto e sì, ora siamo arrivati a un punto che è quasi tutto sta andando bene, benissimo, grazie all'aiuto delle donne italiane. Ma dunque, questo progetto che cosa prevede? Prevede di aprire un centro di consulenza legale per donne in Mali. E la consulenza legale per donne rispetto a che cosa? Rispetto a tutti i diritti delle donne, allo sviluppo della donna e poi combattere le mutilazioni genitali femminili. In che modo? Facendo passare più informazioni e molte sensibilizzazioni. Quindi un lavoro di informazione per le donne e di sensibilizzazione delle donne. E quindi anche poi fornire gli strumenti legali, cioè tu conosci le leggi del tuo paese e quindi puoi fornire un'assistenza legale alle donne. Sì. Sarai tu impegnata e chi altro con te? Sarò io e altre donne. Ho l'intenzione di creare un'associazione di donne e lavorare con loro, che pensano come me. Grande, sei grande. Bene, e quando dovrebbe partire il progetto? Diciamo all'inizio di settembre. All'inizio di quest'anno, sì. Quindi il 2006, a settembre del 2006 tu tornerai in Mali e inizierai. In quale città andrai? Per ora la città, non ho casa, sarà alla capitale, a Bamako, almeno ho la casa dei genitori. Ok, quindi posso avere ospitalità a casa dei miei genitori. Quindi intanto tornerà, e comunque da lì è possibile intanto contattare più donne, con buona probabilità, che hanno anche con la possibilità di aggregazione, perché poi la situazione geografica com'è? Perché da quello che ho capito ci sono varie etnie, quindi vari paesi, varie città, con differenziazioni anche culturali, no? Mi stavi dicendo prima di iniziare la trasmissione, che anche a proposito delle mutilazioni genitali femminili, questo non è un problema che si sviluppa ugualmente in tutto il paese, ma ci sono delle differenze geografiche, no? Sì. E cioè? Sì, ci sono alcune parti del Mali dove non si pratica proprio la pratica delle mutilazioni genitali, che non si fa, non conoscono, non fa parte della loro cultura. Io da sempre, parlando a Ludi, incontrando altre donne, io ho sempre detto, il problema è comunque non è più la nuova generazione. Però in Africa abbiamo molto rispetto per le persone anziane. E come viviamo con la famiglia, diciamo, è molto allargata. Tu comunque lasci la tua figlia, tu vai al lavoro, vai in una festa, lasci la bambina a casa dalla nonna, della zia o della sorella. Comunque per te la bambina sta in sicurezza. Però tornando tu puoi venire a trovare che hanno portato la bambina per subire la pratica. Quindi c'è questa famiglia allargata, che è anche una grande fortuna, perché permette di potersi aiutare reciprocamente, può diventare anche una fonte di sorpresa, insomma, no? Sì, è una fortuna, però per il fatto delle mutilazioni genitali femminili, come una pratica che porta più male che del bene, dobbiamo riuscire a convincere, non sarà facile, a convincere le persone anziane che vivono con noi, facendo capire a loro che comunque è una cosa antica che porta più male che del bene. Ascolta, erroneamente e in maniera molto maldestra, per essere gentili, vengono definite le mutilazioni genitali una violenza. Noi, per il rapporto di scambio che abbiamo avuto con le donne di Nodi, sappiamo che in realtà non la si può definire soltanto una violenza, no? Vorremmo che tu ci spiegassi bene il tuo punto di vista al riguardo, perché noi abbiamo capito che non si può definire soltanto violenza senza spiegare il contesto nel quale questa pratica viene fatta. Se ci vuoi spiegare la tua opinione, così come ce la stavi spiegando bene prima. Noi l'abbiamo capito, però secondo me è necessario che tutte le donne qui riescano a comprendere questo punto di vista. Voglio precisare una cosa, che prima di tutto io sono contro le mutilazioni genitali femminili, perché ho capito, ho visto che comunque è una pratica che porta più male che del bene. Però in Africa, anche per me, il termine violenza è troppo forte, perché i genitori in Africa, quando portano loro bambine, non hanno nessuna intenzione di esercitare la violenza sulle bambine. Per loro fanno tutto per il bene della bambina. Anch'io, vedendo le immagini che voi vedete, quando vedo queste immagini, senza pensare, rimango male anch'io, se devo vedere le immagini e interpretare. Però il problema è che ci sono... Prima ci sono state alcune ragazze che le mamme non hanno voluto fare la pratica. Da grande o da sole sono andate a fare la pratica, o comunque ce l'avevano con le mamme, perché le altre hanno avuto, perché a me no, perché a noi no. Perché non era solo anche perché... No, anche perché a quel punto avevano delle difficoltà ad inserirsi nel circuito sociale, diciamo, no? Quindi per potersi sposare, per poter quindi mettere su a loro volta famiglia e avere figli, no? Sì. Perché la regola è questa. E quindi è una regola, diciamo, culturale. E poi anche le donne comunque avevano delle informazioni, secondo me anche sbagliato, perché anche parlando con altre persone, altre amiche africane che si trovano in Europa, parlando con loro, alcune non hanno avuto la fortuna di capire meglio la cosa, che loro dicono che hanno sentito una donna che ha avuto la pratica è una donna che piace di più al marito che una donna, è tutto il contrario. Però anche lì, loro in Africa, nei villaggi e tutto, sì, veramente loro pensano così. Comunque è sempre per fare piacere, per dare più piacere all'uomo, perché è questo messaggio che era diffusa. Che arriva. Quindi tu torni perché vuoi fare, come hai detto, opera di... un lavoro di sensibilizzazione e di informazione, che è il modo per poter cambiare il pensiero e quindi la cultura di quel pensiero. Sì, a me piacerebbe arrivare a un punto che, per esempio, ci sono le donne che fanno la pratica, cioè ancora chi porta la bambina. Però se loro, queste donne riescono a capire meglio, si sono bene informate delle conseguenze, arriverà un punto, queste donne che fanno la pratica saranno obbligate a abbandonare, perché se non trovano più nessuna che porta la bambina, saranno obbligate a cambiare mestiere. Certo, certamente. Ci sono altre domande che vogliamo fare? Allora, tu vuoi dirci qualche altra cosa per spiegarci ancora di più del progetto? Oppure mandiamo un bel pezzo musicale, dici tu. Un bel pezzo musicale. Grazie. Allora, il sole nella pioggia di Giuni Russo. Oh no, è Alice, scusa, è Alice, scusatemi. Alice, il sole nella pioggia. Alla luce dei falò, ma sedendo quietamente l'autunno viene da sé. Le litanie delle donne e i villaggi dell'Indonesia, davanti ai simboli di pietra, invocano la fertilità. Ma intanto l'universo geme nelle doglie del parto. Quelli che sanno le cose non parlano. Personali, i rituali non servono. Il mondo è un'ombra che cammina nel fiume del Tao. E la luna alla finestra, il ladro non la porta via. E Allora, c'è arrivata una telefonata, io confesso che sono un po' impedita, nonostante mi spacci per una tecnica, non riesco a mandare in diretta una telefonata. Adesso Lucilla gentilmente ci sta facendo da tramite, sta prendendo tutta la telefonata e poi ne riparlerà. Invece per quanto riguarda Fatou, voleva fare una piccola precisazione rispetto alle nuove generazioni. Aspettate un attimo, sì, ok. Riferiamo alla telefonata che ci è arrivata, un attimo di pazienza, Fatou, eh? Sì, è molto importante perché innanzitutto è Zainish, ed è Zainish di Rete contro tutte le mutilazioni genitali femminili e di Nodi, Nostri Diritti. Ha telefonato in questo momento e noi non siamo stati in grado di riuscire a mandare in diretta la telefonata e ci scusiamo. Lei ci fa naturalmente i complimenti per la trasmissione, è molto contenta, dice e fa i complimenti soprattutto a Fatou rispetto al suo progetto. E quello che dice è che per quello che riguarda lei, cioè Zajnish, quindi la sua esperienza, il problema è di relazione all'interno di un paese straniero, cioè qui in Italia per esempio, lo è stato non soltanto perché ha avuto difficoltà con l'incontro di una cultura altra, diversa dalla propria, da quella di origine, ma anche rispetto agli uomini provenienti dalle altre culture e della sua e altre culture, altri migranti, e anche le donne provenienti dalla propria, dalla personale cultura, perché anche per chi si allontana dal proprio paese di origine c'è la paura a contaminarsi con un'altra cultura e a perdere la propria radice e quindi la propria identità. E questa cosa però crea un grosso problema di comprensione e quindi una difficoltà poi a rimanere anche nell'ambito della propria comunità. Si diventa a quel punto alieni dalla propria cultura, ma anche dalla cultura, diciamo così, di accoglienza, cioè la cultura che del paese in cui si viene. E questo era un problema per lei molto importante. Non so per te come fa tu, se tu hai trovato anche tu queste difficoltà, e poi va bene l'altra questione, se ne vuoi parlare un attimo, insomma queste due ultime questioni. Sì, come ha parlato Zajnish, condivido le sue argomentazioni, perché comunque tu quanto sei fuori, non è non anche solo in Europa, anche in un altro paese africano. Comunque tu vai lì, tu vieni già con la tua cultura, però vai lì e vedrai altre culture che devi imparare. Però io ho detto, io sono per una cosa, qualsiasi cultura, qualsiasi cosa per l'altro, se è per portare del bene, se è per portare il cambiamento in un buon senso, sono pronta anche ad adottarla. Però sì, è una cosa che posso dire, sì, non è una cosa per bene per niente, che non va con la mia realtà, che è una cosa che porta del male, sono contro. Certo. Sì, non so, cosa pensi? Possiamo concludere qui la nostra intervista o vuoi dire ancora qualche altra cosa? La cosa che volevo aggiungere è il fatto della nuova generazione in Africa, per esempio, io ho 31 anni, non ho nessuna intenzione, quando avrò una bambina, di farla subire le mutilazioni genitali femminili. Penso che ci saranno altre 1000 ragazze, mamme, che hanno l'età mia e anche un po' più grande, che pensano della stessa maniera. Però il problema è sempre che noi viviamo con le persone più grandi e poi loro hanno molto diritti, decidono loro. È da lì che dobbiamo iniziare a andare, a provare a convincere le persone molto più grandi di noi per arrivare all'abbandono di questa pratica. Sì. Allora, sì, mettiamo una canzone, Apri la bocca e fai fuoco di Fiorella Mannoia, che ci sembra proprio adatta. Salutiamo Fatou e volevo, ci sono degli estremi per, allora, per chi vuole contribuire al progetto Scommettiamo con Fatou, può farlo sul conto corrente postale numero 5323 0009, intestato a UDI Unione Donne in Italia, specificando progetto Fatou, scritto Fatou. Grazie, e noi contribuiremo. Grazie Fatou. Grazie a tutte. senti il ritmo indiavolato dei pensieri che avvertono che questo è l'istante di spaccarsi le mani, anche se vedi gli occhi che si abituano a guardare nel sangue di chi non si risparmia e cerca il sole anche dove non c'è. Apri la bocca e fai fuoco, brucia la calma che hai. Apri la bocca e dai fiato, usa la forza che hai. Fai male, il male torna, qui lo sanno e nessuno lo fa. Non ti stupire di chi ride beato di sé, se anche il naso ti si abitua a sentire l'odore che c'è. Allora, rapidissimamente, non riusciamo a mettere neanche la sigla degli appuntamenti perché la trasmissione è stata troppo importante per noi. Consistente. E consistente, grazie. Dunque, un appuntamento al quale non potete rinunciare, noi ve lo diciamo. Assolutamente no. È il 22, giovedì prossimo, quindi tra due giorni, dalle 18:30 alla Casa Internazionale delle Donne, il Centro Femminista Separatista, il Coordinamento Lesbiche Romane e il CLI vi invitano alla seconda edizione di Sappho Garden, giochi all'aperto, cena e musica sotto le stelle. L'appuntamento è alle 18:30 per la proiezione del film Sara, sulla scrittrice Sara Zanghi, fatto da Margherita Giacobino. Questo primo appuntamento è in collaborazione con la libreria Zora Neale Hodgson. Alle ore 20 iniziano i giochi, quelli proprio prodotti da noi, fatti da noi. Fatti in casa. Fatti in casa con premi, quindi venite. Ricchissimi premi, posso dirlo. E alle ore 21 cena di autofinanziamento, sapete che insomma le cene sono buone. Quindi non venite mangiate, come si dice. Esatto, a seguire musica e balli, assolutamente. Quindi vi ricordiamo che se volete contattarci potete farlo telefonando allo 06 68 64 201, tutti i mercoledì e qualche volta il giovedì, insomma i mercoledì e giovedì dovreste, ecco, trovarci. E potete invece scriverci al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, oppure andare a visitare il nostro sito per riuscire a capire bene chi siamo, ma anche per tutte le iniziative fatte e che ci saranno. E il nostro sito è www.clrbp.it. Sì, dobbiamo proprio salutarvi. Vi ricordiamo che domenica e lunedì si vota per il referendum costituzionale. E facciamo una cosa di sorpresa. No! No! No. Si vota no! Si vota no! No! Si vota no! E con noi, noi ci esprimiamo per il no, così come anche l'UDI, Unione Donne Italiane, dice noi voteremo no. E diciamo no a qualsiasi stravolgimento, anche linguistico, teso a soddisfare interessi particolaristici o, peggio, tentazioni autoritarie travestite dall'alibi della governabilità. E noi siamo d'accordo. Poi andremo a rivedere quanto non ci piace di questa Costituzione, ma prima bisogna arrestarli. Arrestarli nel vero senso della parola. Allora, il coordinamento lesbiche romane vi dà appuntamento a martedì prossimo con la replica di questa trasmissione. Ringraziamo nuovamente Fatou, ringraziamo Anna che è venuta a fare la new entry alla radio, grazie a Lucilla, grazie a me che sono stata bravissima, ho portato in fondo la trasmissione e vai, sono bravissima. Okay. Ciao a tutte e martedì prossimo ci aspettiamo, vi aspettiamo. No, giovedì 22, ok. Sappho Garden. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. It's so natural.